quando ero piccolo anch'io, quando ero piccolo e mi capitava a scuola di dovermi cimentare con l'analisi logica, che è una sorta di elaborata tortura mentale che allora si usava parecchio e che spero sia nel frattempo sparita, avevo dei problemi, ricordo, con il complemento di specificazione. Mi sembrava quel complemento di una straordinaria elusività, forse perché i criteri che mi avevano fornito per riconoscerlo si riducevano al fatto che fosse retto dalla preposizione di e o rispondesse alla domanda di che cosa, il che mi lasciava affatto disarmato di fronte a espressioni del tipo prima di sera o statua di piombo, che complementi di specificazione non sono, nonché ai libri di Emilio Salgari, Salga vi dicevo allora, o al problema di cosa avrebbe pensato la maestra di me. Quelle perplessità si sarebbero ulteriormente acuite pochi anni dopo i primi contatti alla media con il genitivo latino, che allora si presentava ai giovinetti come la forma in tutto corrispondente al complemento di qui sopra, salvo lasciar loro scoprire a proprie spese che non lo si poteva utilizzare né per la materia, né per l'argomento, né per le sequenze temporali, e che in ogni caso, quando lo si impiegava per specificare un sostantivo, come il di in italiano appunto, lo poteva specificare in mille modi diversi e più. Con il tempo sono riuscito a orientarmi un poco, fino a capire la differenza tra genitivo oggettivo e genitivo soggettivo, per esempio, a distinguere per quel che serve la paura del lupo che affligge i porcellini da quella che prova il lupo stesso nei confronti dei cacciatori. Sono paura del lupo tutte e due, ma sono due cose diverse. Ma resto ancora oggi dell'opinione che un'analisi esaustiva e soddisfacente di questi usi linguistici sia ancora da fare, anche se grazie soprattutto all'opera di Silvio Ceccato e della sua scuola, ammesso che ne esista una, gli strumenti concettuali necessari per chi se la sente ormai ci sono. Nell'attesa ho paura che agli inermi frequentatori delle scuole elementari e medie si spieghi ancora che il complemento di specificazione è quello letto dal D e che la sua funzione è quella di specificare i rapporti dei sostantivi tra loro, sorvolando, oltre che sulla tautologia, sul fatto che difficilmente un modello tanto povero può essere in grado di dar ragione dell'infinita ricchezza dei rapporti che si possono porre tra i sostantivi e tra i soggetti a cui i sostantivi si riferiscono. Il che non è semplicemente un problema di classificazione o definizione di modelli linguistici, visto che dall'ignoranza non emerge mai nulla di buono sul piano dei valori sociali e che c'è sempre gente che approfitta di questo tipo di ambiguità per perseguire senza prendersi il disturbo di dichiararli a nessuno i propri fini personali. Il presidente Formigoni, compiendo chissà quale mossa basilare nella complicata partita di potere che conduce da tempo con il suo capo, ha riempito la Lombardia di manifesti formato gigante, in cui accanto a una fotografia piuttosto melensa del suo bel faccione afferma di essere bianco su verde il presidente di tutti. Di tutti noi lombardi, vuol dire, me e voi compresi, che non è un'affermazione gentile nei confronti dei molti che da voi dissentono per programmi, tendenze, ideologie, per non dire dei non pochissimi che pur di non averlo in quel ruolo hanno compiuto il sacrificio, diciamo, di votare per Diego Masi o per Mino Martinazzoli. Ma pure, in un certo senso, un'affermazione vera, perché è indubbio che su tutti noi quel pio figuro presieda, lo esigono le leggi della democrazia nella versione imperfetta concessaci dal capitalismo. E finché la sinistra continuerà a preferire le luci della ragione a quelle dei fabbricanti di lampadari, suppongo che colui continuerà a presiederci per un pezzo. Sì, già direte voi, la proposizione sarà anche vera in quel senso, ma non lo è in quello, per così dire, del genitivo oggettivo. Non è vero che i lombardi si rispecchino al 100% nel suo governo, né che ne condividano i valori, né tantomeno che gli abbiano conferito all'unanimità l'incarico di rappresentarli in quella sede. Si può discutere del tipo di rappresentatività dei deputati, che ai sensi della Costituzione agiscono senza limiti di mandato, per cui a noi milanesi tocca essere rappresentati tra gli altri da Ignazio La Russa, e scusate se poco, ma i presidenti delle regioni quelli hanno un ruolo tipicamente esecutivo e rispondono solo alla propria parte politica e al relativo elettorato, non rappresentano nessuno. Formigoni, si sa, pone qualche problema in merito, nel senso che non è chiaro se risponda a Forza Italia, a CL, alla Chiesa Posteventina, allo Spirito Santo, alla Compagnia delle Opere o semplicemente a se stesso, ma questi sono cavoli appunto dei suoi elettori. È tutto verissimo, naturalmente, ed è probabile che lo sappia anche lui, solo che per l'occasione fa finta di no. Si tratta del resto di una mossa caratteristica dell'armamentario politico di tutti i tempi, no? Quella di chi confonde o identifica i progetti di parte con il mitico interesse generale e in nome del ruolo istituzionale che a torto ragione riveste pretende la lealtà di tutti. Di tutti. Come se il semplice fatto di stare al potere garantisca la capacità di comporre i contrasti e di dare a tutti senza togliere a nessuno. Da questo punto di vista, non c'è re, presidente o tiranno che non tenda sempre ad identificarsi con il paese su cui esercita il proprio controllo, perché questo gli dà l'ovvio vantaggio di legittimarsi a basso costo e di trasformare oppositori e rivali da rispettabili avversari politici in spregevoli nemici della patria, se va bene in brutta gente che rema contro. E non so le altre lingue, ma l'italiano con quella faccenda dei due genitivi un pochino li aiuta. Il nostro devoto presidente, anche in questo caso, non ha inventato nulla di nuovo. Come prassi del suo gruppo di riferimento, mi ricordo che a scuola ho avuto il dubbio onore di essere allievo di Don Giussani e quindi queste tecniche le ho imparate in giovanissima età, come prassi del suo gruppo di riferimento si limita a ripresentare con una certa dose di sfacciataggine delle vecchie proposizioni usurate, contando per avvalorarle più sulla burbanza con cui le presenta che sulla loro logica interna. E questo, se non altro, ci fa capire perché varrebbe la pena di risolvere una volta per tutte sul piano teorico quel problemino di analisi logica che mi affliggeva da piccolo alle elementari. Soltanto per dotarci di uno strumento di analisi che impedisca a gente come lui di ricorrere con disinvoltura a questi giochini linguistici che ricordano molto il gioco delle tre tavolette.